avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. L'avevo preannunciato ieri e sicuramente già sento scorrere un brivido di attesa e passione in chi mi ascolta, perché oggi parleremo del rapporto tra donne e vino. Guardate, io non sono un grande bevitore di vino, non sono nemmeno un appassionato di vino. Vengo da una famiglia umbra che produceva vino, ma era quel vino rozzo delle campagne che si beveva a tavola, si vendeva ai contadini, ai fattori e serviva la sera per dimenticare le fatiche del giorno. Non era uno di quei vini fantastici, trasparenti, meravigliosi, che fanno sognare, che fanno sedurre. Era il vino per ammazzare la fatica. Invece, essendo immerso da un paio di giorni a Verona, al Vinitaly, nella fantastica ostentazione del vino da sogno, ho cominciato a capire qualcosa. Ho cominciato a capire che in realtà forse il punto fondamentale per il profano come me, che si accosta a quello che oggi chiamano cultura del vino, che per me era totalmente sconosciuta, è proprio il rapporto tra vino e femminilità. Guardate, un antico e ormai decadente signore di campagna che considera il vino come qualcosa di suo, qualcosa di proprio, è l'uomo che scava la vigna, è l'uomo che scassa la terra, è l'uomo che pianta la vite, è l'uomo che sorregge, pota, cura, salva la vite. La donna al massimo può vendemmiare o aiutare alla vendemmia. La donna può aiutare e contribuire alla pigiatura dell'uva, ma poi è tutta la fattura del vino, quel processo alchemico del vino. Io sapevo nella mia arcaica e retrograda cultura che competesse agli uomini e mi sbagliavo moltissimo. Nella famiglia di mia moglie, gli Aztec, c'è la credenza che bisogna avere il permesso dei quattro venti per raccogliere ciò che dona la terra. Non è bellissima? Las mujeres! Vittoria! Coraggio, sei una donna sposata ormai! Ma Pedro non viene? Lui non è sposato! Neanche noi! Il profumo del mostro selvatico di Alfonso Arau è un film che idealizza e pone su un piano irreale, romantico, quello che io sto cercando di farvi capire questa mattina, che ho scoperto osservando oggi il vino e la fattura femminile del vino. Questo film di Alfonso Arau, c'è un anziano e decaduto Anthony Quinn che però ritrova attimi di vigore nell'osservazione della pigiatura del vino, come ritualmente la facevano perlomeno in quella zona della Spagna, un grande tino all'aperto, enorme, gigantesco, in cui entravano le donne sposate, perché occorreva essere passata comunque per una fase importante, che è quella dell'iniziazione sessuale, per pigiare il vino, perché è un atto troppo profondo, un atto troppo legato a un rapporto viscerale, intimo. La donna non ancora deflorata non poteva pigiare il vino a piedi nudi. Entrano le donne sposate, si tirano sulle gonne, se la annodano in vita e cominciano a pigiare allegre il vino con i loro piedi e da il mostro, diciamo l'uva con quello da cui verrà poi fuori il mostro, con i loro piedi, e gli uomini guardano rapiti attorno questo gesto fantastico e primordiale. 800240024, siete donne, siete uomini, avete ancora una visione passata retrograda del rapporto con il vino, che è qualcosa che appartiene all'uomo. L'uomo è il grande sacerdote del culto dionisiaco, la donna poi partecipa nell'elemento orgiastico, nell'aspetto collaterale o nella conseguenza, non è colei che fa il vino. Invece il vino è fortemente legato alle mani femminili. Oggi mi sembra di aver percepito, ma di questo avremo prove, che le grandi fabbricatrici, le conoscitrici, le alchimiste, le scopritrici, le inventrici delle formule segrete del vino sono tutte donne. E le donne hanno anche delle facoltà fisiche, fisiologiche, una sorta di apparato gustatorio, sono le papille gustative, è la sensibilità della lingua, hanno qualcosa che sono anche le migliori assaggiatrici di vino. Non usare profumi intensi, quindi dopo barba per gli uomini, profumi molto speziati per le donne. A me è capitato di partecipare ad una degustazione, avere a fianco una bella signora molto profumata, io non ho sentito il vino, assolutamente niente, e neanche va messo il rossetto, perché ovviamente il rossetto, come anche un lucida labbra o un balsamo labbra, quindi un burro di cacao, comunque con i suoi profumi ci va ad alterare l'olfatto. Quindi teniamo presente questo. La seconda cosa, non mangiare sostanze che ci alterino. Solo per dare un esempio tratto da YouTube, preso questa mattina, una donna che spiega ad altre donne quali sono i segreti per non inquinare quella che è la funzione sacerdotale di colei che assaggia il vino con quelli che sono i normali ornamenti, i profumi, gli aspetti più tipici della femminilità. 800240024, le donne e il vino. Prima di sentire le ospiti che ho qui trepidanti accanto a me, subito un'ascoltatrice, Francesca, dalla provincia di Massa Carrara. Buongiorno. Sì, buongiorno. Fabbrichi vino, Francesca? Lo fabbricavo. Perché hai smesso? Nel senso, io... mio padre aveva 3 ettari, 4 ettari di vigneto, che adesso sono diventati mielento, però io per esempio il mio asilo l'ho passato in cantina con mio padre, quindi abbiamo sempre fatto vino, da sempre insomma. E in effetti sì, ormai è diventata faccenda di donne, quindi... Ecco, quando è avvenuto questo passaggio? Per me è stato del tutto invisibile. Perché c'è stato un momento, io mi ricordo, anni 50, 60, 70, la cultura del vino era prettamente patriarcale. La donna non entrava in cantina. Quando i padri hanno cominciato a portare le figlie in cantina? Hanno cominciato a portare le figlie in cantina dai primi anni 70. Quindi ecco, la generazione, allora. Io ho 46 anni, ho 45 anni, ne compio 46 ad ottobre, quindi è quella generazione che ha cominciato a cambiare. E in effetti quando poi le donne sono entrate in agricoltura di più prevalentemente, è stato questo... la sostituzione non è più avvenuta con i figli maschi ma con le figlie femmine, e quindi da lì è diventata, quindi, e poi diciamo ha raggiunto, diciamo, penso che stia raggiungendo, ha già raggiunto il massimo intorno alla, negli anni 90, e adesso si sta consolidando come tendenza, secondo me. Allora, resta anche un attimo perché... resta in ascolto, Francesca, sì. Perché volevo subito far intervenire Pamela Guerra. Pamela Guerra, buongiorno. Buongiorno a tutti. Pamela si occupa di comunicazione, pubbliche relazioni per le aziende del settore vino e naturalmente è una grande appassionata di vino. Dal tuo punto di vista, di colei che poi promuove il vino, fa sì che il vino venga conosciuto, c'è una corrispondenza rispetto a quello che dico? Realmente c'è stato un momento che nella cultura del vino la donna ha cominciato ad entrare in quello che era il regno degli uomini? Sicuramente, e lo vediamo dai ruoli che sono sempre più femminili in quelle che è la produzione, comunicazione e promozione del vino. Sicuramente il vino è femmina perché... Non lo è mai stato comunque. Eh? Non l'è mai stato. No, non l'è mai stato, ma sta cambiando, perché se fino a qualche decennio fa, come diceva Francesca, le donne magari erano deputate ad alcuni ruoli all'interno dell'azienda, all'interno anche della stessa famiglia, perché poi dopo l'azienda corrispondeva con la famiglia. Ora i ruoli sono cambiati, sono evoluti, sono le donne che vanno a vendere il vino, sono le donne che lo comunicano, sono le donne che lo producono, allevano la vite, lavorano in vigna. Si riappropriano forse di un ruolo, questo sicuramente, ma è sempre più forte, molto forte, perché comunque le donne del vino sono tante. Tantissime. Giulia Gavagnin, al telefono, un'altra donna che ha a che fare col vino. Sì, Giulia. Buongiorno Gianluca. Trovi un nesso... Aiutami e sorreggimi, sì. Sei una donna sommelier? Sì. Una sommelier, non so esattamente come si dica. Sì, cioè, sì, giri sommelier. Comunque sono ovviamente una sommelier dilettante, nel senso che poi ovviamente durante la vita di tutti i giorni faccio tutt'altro, però diciamo che nei miei momenti di degustazione e nei miei weekend mi difendo più che bene. Ecco, secondo te, dammi dei punti chiave di questo passaggio, in cui il vino, il fluido dell'ebbrezza e anche il potente strumento di seduzione e scardinamento di ogni ritrosia femminile che hanno sempre usato gli uomini. I vecchi viver della provincia Umbra mi dicevano: se tu vuoi conquistare una donna, falli mangiare molto prosciutto, cose salate, e poi dagli il vino, si ubriaca, ci fai quello che vuoi. Oggi è cambiato completamente. È cambiato completamente, bisogna un attimo intenderci perché e come è cambiato completamente. In realtà le donne sono diventate delle delle grandissime e affezionatissime bevitrici. Adesso non intendo naturalmente nel senso del santo bevitore di Josef Roth, ma con la progressiva emancipazione, con la socializzazione, con l'andare fuori. Sì, ma esce dalla lettura sociologica, entra più nell'aspetto sì. viscerale e concreto. Ma allora, lo senti sulla io tua sono pelle, convinta questo. Di una cosa, allora, io sono convinta di una cosa, che con il progresso dell'enologia lo stesso vino come prodotto si è incredibilmente raffinato rispetto al vino del contadino che si beveva una non più volta adeguato alla rozza e basica campagne. Mascolinità, non questo vuol dire. Non si beve più esattamente il Merlot, il Cabernet Franc pieno di tannini che quindi poteva essere addirittura fastidioso anche per il palato femminile. Adesso l'enologia che è diventata una vera e propria scienza e che si è sviluppata moltissimo produce una serie di cose che fino a 50 anni fa, 40 anni fa erano assolutamente. Quindi dici questo tipo di articolazione richiede un cervello molto più elaborato, molto più raffinato, ma molto poi, più sì, adeguato ma alle sfumature. Ma in adesso realtà è anche tutto procede per gradi, nel senso che le donne si avvicinano al vino, prima con il vino dolce, poi iniziano a bere i vini sud tirolesi, che sono vini molto aromatici, e mano a mano si abituano a dei gusti diversi. Però allora fermati un attimo, perché smentirò radicalmente quello che stai dicendo per dimostrare che in realtà nei variegati pareri è anche il fantastico di questa conquista del vino da parte delle donne. Ho qui accanto a me una produttrice di vino, Cinzia Canzan. Buongiorno Cinzia. Cinzia Canzan è la proprietaria, la tenutaria, non so come si dice, delle vigne di Alice, di Vittorio Veneto, che è una casa vinicola. Aveva prodotto un vino che si chiamava Osè e oggi presenterà al pubblico un nuovo vino che si chiama Punto G, che è un vino favoloso, un vino che si chiama Punto G, prodotto da una donna, che ha questa fantomatica leggenda metropolitana che già aleggia sulla sua produzione. C'è una fase della spremitura e si fa da sedute invece che con i piedi lo spremete seduto, non so se sia vero. Cinzia Canzan, tu sei forse la persona che più di tutte può darci lumi su questo esproprio della patria potestà del vino da parte delle donne. Se questa è una metafora mi sta bene. Non è vero o non è vero che lo spremette seduto? È verissimo. Però tu hai inventato un vino che si chiama Punto G, quindi è sì. uno schiaffo in faccia a tutti gli uomini del mondo, perché è la cosa più misteriosa, più ineffabile, più contraddittoria della femminilità e tu l'hai messa sull'etichetta del tuo vino. No, ma non è uno schiaffo. Per me l'uomo, io sono entrata nel mondo del vino grazie agli uomini. Nella mia vita ci sono stati tutti i maschi che mi hanno introdotto nel mondo del vino e quindi devo tutto e la funzione di solito i maschi hanno a loro. E secondo me il vino è un veicolo di piacere e veicolo di piacere intendo che il primo approccio col vino è olfattivo, quindi il profumo del vino diventa riconoscimento tra uomo e donna, diventa riconoscimento tra è come madre e figlio, come dicevi tu prima. È fondamentale. Ieri un giornalista mi ha detto: il tuo vino si sente che è fatto da te, che sei, oltre ad essere donna, sei madre. E in questa c'è una componente molto importante. Il primo riconoscimento tra donna e uomo è olfattivo. E io attraverso il punto G è un modo di comunicare soprattutto con gli uomini. Tu hai voluto far capire e comprendere al mondo degli uomini, che è ormai completamente deprivato di questa sua capacità unica di gestire il vino, che una donna ha delle qualità anche organiche, fisiologiche, di interiorità più spiccate per gestire il vino. Questo è il vino che sprigiona e scaturisce dall'intimità di una donna, è questo il senso? Sì, diciamo che noi diamo un contributo che è diverso dagli uomini. Francesca, la produttrice che avevamo sentito all'inizio, Francesca che è un'azienda agricola a Massa Carrara, ti ho fatto stare in ascolto perché vorrei sapere se quello che è stato detto adesso in studio aggiunge qualcosa a quella che era l'intuizione della tua esperienza personale. Sì, aggiunge qualcosa, nel senso che mi rendo sempre più conto che il vino, come anche tutta la cultura agricola, è una cultura materiale molto importante, è un giacimento culturale che molto spesso viene un pochino dimenticato, messo in seconda posizione dagli uomini. E secondo me il valore che hanno aggiunto delle donne è proprio anche quello di, come dire, di rendere, di interiorizzare questa produzione, questa cultura e di comunicarla in maniera diversa. Però questo secondo me, cosa succede? È stato un pochino travisato, come dicevate ieri, da quella che è diventata una cultura dilagante, no, del vino, che però ha un aspetto superficiale che è di massa, che quindi molto spesso la gente non conosce poi, o comunque fa finta di conoscere gli aspetti del vino. Guarda, poi per confermarti quanto sia così denso di anche vergognosi pregiudizi questo rapporto fra donna e vino, mi scrive un ascoltatore, manda un SMS, penso dalla Sardegna, dice: da ragazzo durante la vendemmia mi si disse che le donne durante il ciclo non possono avvicinarsi al mosto, credenza superstiziosa della Sardegna. Pamela Guerra, hai mai sentito dire questa enorme baggianata? Sì, sì, ma tante cose le donne non possono fare durante il ciclo. Vabbè, questo nel tabù di alcune religioni di tipo monoteista, che una donna mestruata è impura e quindi tutto ciò che tocca sfiorisce, appassisce. Esatto, per cui non può avvicinarsi alle piante, per cui non può andare in vigna, per cui non può andare in cantina, perché non può, farebbe, tra virgolette, impazzire il vino, e comunque altererebbe quella che è le qualità del prodotto, perché in certi momenti il tabù dice che la donna diventa pericolosa per quella che è la vita e la vitalità di alcuni prodotti e di alcune situazioni. Sono comunque tutti tabù. Cinzia Canzian, che lavora 365 giorni all'anno dentro il vino, ti sei mai posta questo problema? Assolutamente no, come non me lo sono posto in altri momenti. È divertente comunque, questo è un modo anche questo di capire quale sia stato il rapporto tra uomo e donna una volta e come si è cambiato adesso. Vi rendete conto che questa mattina stiamo scoprendo quanto in realtà c'è stata una sottile, impercettibile e non avvertita da nessuno rivoluzione in un campo profondo, in un dominio ben circondato e ben delimitato a mascolinità? 800240024, chiamate, rapporto donne e vino. Il primo piatto ha delle caratteristiche specifiche. In base a queste caratteristiche vanno scelti i vini giusti. Ecco alcuni esempi. Partiamo dal minestrone. La presenza delle verdure e dei legumi darà al piatto la tendenza dolce e aromaticità. Inoltre, non dobbiamo sottovalutare la succulenza della zuppa. In questo caso non importa il... Una donna giapponese, sommelier Yumi Kumagawa, che in internet mette anche lei dei consigli come abbinare il vino ai primi piatti, per dire quanto insomma è diventata cosmopolita questa usurpazione, espropriazione del dominio sul vino da parte delle donne. Gianni da Lucca, buongiorno. Buongiorno. È vero che... Ci è rimasto vino... un po' male lei, io me ne rendo conto. Assolutamente. Allora, è vero che il vino è cambiato tantissimo. Anch'io sono di estrazione campagnola, con il nonno che faceva un agrone rosso che era veramente terribile. Sì, diciamo la verità, i vini fatti dai contadini in campagna di una volta facevano veramente schifo. Sì, sì, sì. Sono assolutamente d'accordo. Per cui c'è stata una grossissima evoluzione nel vino in questi anni, ma soprattutto si sono resi i vini bevibili. Dopo bevibili e accattivanti, dopodiché da lì a dire sì, io conosco tante donne sommelier, esperte di vino, bravissime, eccetera. Peccato che ho invitato a cena una donna sommelier, perché a me piace cucinare. Parlo di qualche anno fa, adesso sono felicemente accasato. Ma prima, Non impedisce di invitare donne a cena l'essere accasati. No. Sì, però con la moglie. Prima invece, quando cacciavo, no, mi è capitato per esempio di invitare a cena la donna sommelier e quindi di acquistare una buona bottiglia di Brunello. Lei ha fatto 3.000 elucubrazioni degustando questo vino, eccetera. Sì. Però alla fine poi non ho quagliato. Vabbè, da colpa al vino, di la colpa a se stesso che c'entra il vino. Cosa diversa invece è stata... Se avessi portato una bottiglia d'acqua minerale, il risultato non sarebbe cambiato, secondo me. Come vede, abbiamo spostato in realtà nel mondo femminile una delle nostre pecche, che era quella di ostentare sapienze, conoscenze teoriche, quando in realtà forse non ce n'è assolutamente bisogno. Grazie comunque Gianni, io devo abbandonare un attimo la linea per darla alle informazioni della borsa. Saluto Pamela Guerra, so deve andare a occuparsi delle sue vinaie, e ci sentiamo tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Un'altra regola importante è l'orario. Spesso negli eventi che noi, a cui noi partecipiamo, a cui partecipate anche voi, ne sono sicura, le degustazioni si fanno di sera. Non è proprio l'orario migliore è le 10, le 11 di mattina. Il nostro fisico è al meglio, è sveglio abbastanza per degustare. 800-24-0024, questa mattina stiamo parlando del rapporto ineffabile fra donne e vino, rapporto che crea dei problemi agli uomini. Adesso che se ne stanno rendendo conto gli ascoltatori che in realtà questo dominio, questo primato nel possesso della bottiglia e del suo contenuto, soprattutto in un rapporto personale profondo con una donna, non è più in mano unicamente all'uomo, sorge comunque qualche perplessità, come ad esempio Daniele dalla provincia di Pesaro. Daniele, buongiorno. Buongiorno a voi. La mia è una cosa abbastanza è reale, ma è una storia triste, vero? No, anzi, io ero ubriaco quando ho conosciuto mia moglie e mi sono ubriacato quando l'ho lasciata, ma non per dimenticare, per festeggiare, intendiamoci. Non sono quei tipi che dici, ma colpe non ne do, sono di entrambi, lasciamo perdere questo fatto. Ma volevo dire sul vino... Beh, quindi nessuno più di lei ha legato al vino un rapporto comunque importante, anche se ma incluso in questa maniera. Io sono un cuoco, faccio cene a domicilio, nelle case, quindi il vino. Non sono uno che dice ne capisco, qualcosina riesco... Vabbè, lei fa il cuoco, un altro mestiere. No, ma guardi, è iniziata come un hobby che è diventata una professione, non è... Io 50 sì, ma torniamo anni al rapporto tra donna e vino, che è quello che a noi interessa questa mattina. Ecco, perché pone queste due boe così importanti legate al vino? Una donna perché, conosciuta in una sbornia e interrotta, lasciata, abbandonata, annullata, disintegrata in un'altra sbornia. No, nel frattempo però eravate sobri oppure... Ma no, la prima volta ero un ragazzo, lei sa benissimo, è più giovane di me, ma che ai miei tempi magari c'era un po' di vergogna, di timidezza nei confronti delle altre dell'altro sesso, perché i tabù. Quindi bisognava bere per darsi qualcosa forza. Si beveva per liberarsi, avere più brio, più sprint nell'approccio con l'altra parte. Però vede, quindi... lei sta confermando quello che era l'uso arcaico del vino, era un alleato, uno scardinatore di virtù, un sostenitore di vigoria maschile, era diciamo una sorta di arma che l'uomo si portava in tasca. Oggi è totalmente diversa, è qualcosa che le donne dominano, maneggiano con cura e con attenzione, conoscono i segreti, è difficile prenderle in giro. Ho in studio con me Elena Martuscello, buongiorno. Buongiorno. Che è presidente dell'Associazione Nazionale Donne del Vino. Sono centinaia di donne produttrici, ristoratrici, enotecarie, enologhe, sommelier. Quindi lei ha il polso esatto di quello che è il rapporto, almeno nel nostro paese, tra donne e vino. Può confermare quello che sto cercando di dire arrampicandomi sugli specchi questa mattina? Ma io spero e credo d'altronde che l'esperienza che ha vissuto il nostro ascoltatore sia, diciamo, limitato, relativo, personale. Non pensiamo mai noi donne che il vino possa servire né per approcciare una donna, né tantomeno per festeggiare la sua, diciamo, perdita, tra virgolette, o il fatto di averla lasciata. Per noi il vino ha tutto un altro valore. Viva Dio, gli anni sono passati e spero che sia oggi diciamo anche condiviso dalla maggior parte dei maschietti. Il vino è emozione, è passione sicuramente, ma veramente per siglare degli incontri, ma con moderazione sicuramente, senza lasciarsi a degli eccessi che poi possono, diciamo, farci abbandonare, non renderci più padroni della nostra personalità. Elena Martucello, c'è una cosa interessante, me l'accennava lei durante la pausa. Abbiamo visto che storicamente, più o meno sul fare degli anni 70, nel nostro paese le cantine hanno cominciato a svuotarsi di uomini e a popolarsi di donne. C'è una ragione reale, concreta, o è stato semplicemente perché gli uomini se ne andavano, secondo lei? Ma diciamo che spesso, per mia esperienza e quella che posso riportare di tante socie, alcune si sono ritrovate magari senza volere con la cantina, sì, col posto vuoto, perché magari o per un dato doloroso, perché magari si perdeva il papà, o perché magari è successo a me più tardi, molto più tardi, perché ho perso il marito, insomma, quindi restavano un po' questi posti vuoti, in cui la donna forse all'inizio entrava quasi per necessità, ma siccome le donne sanno fare sempre di necessità virtù, devo dire che poi invece è diventato entusiasmante, per cui ci ritroviamo un esercito di giovani che in realtà scelgono giorno dopo giorno con determinazione proprio di occupare certi ruoli in tutti i settori, come può dimostrare la nostra associazione. Cinzia Canzian, che ho presentato prima, delle Vigne di Alice di Vittorio Veneto, che oggi presenta il punto G, il più femminile e il più nascosto dei punti femminili legato a un vino. Come è avvenuto questo passaggio di esperienze fra mondo maschile e mondo femminile? Quando l'uomo, o per un lutto, o per una disgrazia, o per una circostanza particolare, storica, abbandona la cantina, la giovane figlia o la moglie ha già gli strumenti per gestirla, o vive a Dio si reinventa tutto da capo e quindi mette fantasia in un flusso ininterrotto da secoli, se non da millenni, di fabbricazione del vino? No, per quanto riguarda la mia esperienza, io sono partita, avevo già degli strumenti che proprio mio marito mi aveva dato la possibilità di conoscere, quindi se vogliamo sono stata fortunata in questo. Come ho detto prima, c'è sempre stato un uomo nella mia conoscenza, nel mio approccio con il vino, e è bello quando l'uomo ti lascia la strada libera, quando vuol dire che crede in te, che ti dà la possibilità di reinventarti, quindi di decidere, di portare delle idee nuove, e così è stato, così come con il punto G, che è un prosecco di OCG metodo classico, quindi senz'altro una novità, ma una novità ce n'è un altro, non punto G, c'è un metodo classico che però è sempre fatto da un uomo. Quindi metti inventiva, avete il potere, il coraggio della dissacrazione, della profanazione, ciò che sembra scritto sulle tavole eterne della legge, che l'uomo ha molto più difficoltà. Guarda, io però voglio confermarti i più triti, ma anche divertenti nella loro rozzezza, luoghi comuni, che leggono negli SMS. Sono arrabbiatissimi una serie di ascoltatori che ho osato mettere in dubbio quella che per loro era una verità inoppugnabile: la donna mestruata non si può avvicinare al vino. Addirittura mi danno delle giustificazioni di tipo scientifico, dice Nicoletti: d'altro canto, cos'è la fermentazione se non la vittoria di determinati batteri su altri dannosi generati dal ciclo femminile? Per trattare certi argomenti, mi dice Ulisse, su base tecnica bisogna essere più preparati. E vabbè, studierò Ulisse. Poi un altro ascoltatore pure dice una cosa del genere: Nicoletti, quei tabù, una volta il vino essendo meno artefatto con antibatterici e solfiti, si manteneva anche con questi accorgimenti, cioè come se ci fosse una sorta di che ne so, raggio laser che mette la donna in certi giorni che può inquinare il vino. Cosa ne dice? È ora di, anche se mi sembra banale, di spiegare a questi uomini che il vino è tutt'altra cosa. Ma sì, direi sono questi luoghi comuni che comunque fanno parte di un'altra epoca, così come una volta mia madre mi diceva che le banane facevano male, ma solamente perché costavano tantissimo. Quando hai capito che facevano bene, è cambiata la vita. No, io penso che ci sia una ragione profonda. Questi tabù vengono messi per impedire l'accesso delle donne che portano questo elemento di disordine gioioso in quello che è il regno degli uomini. Tu non puoi entrare perché tu c'è qualcosa che mi disturba, mi inquina. Ma vedi la differenza, la rivoluzione c'è stata. Il vino è sempre stato fatto nella stessa maniera per secoli. Improvvisamente diventa qualcosa variegato, curioso, in cui si può cambiare e si può sperimentare. Anna da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Anna, eccomi. Buongiorno, io ho detto da Firenze perché ora sono a Firenze, ma normalmente quando siamo in Italia viviamo a Bulgari, che come lei sa è una zona vinicola. Però siccome siamo una famiglia ungherese, volevo raccontarle del Tokaj, dove mia figlia ha una casa vinicola che produce il Tokaj, che penso che gli ascoltatori sanno è molto diverso dal Tokaj italiano, in quanto è un vino botticizzato dove si sviluppa una muffa sull'uva, sui grappoli. E storicamente è dal 1700 che questo vino è stato scoperto. Sono le donne che possono andare nelle vigne a separare la parte ammuffita, che è quella più preziosa, che fa il Tokaj Assu, dal grappolo che rimane poi sulla vigna. Lei ci sta prendendo degli universi a noi sconosciuti, però è interessante. Molta più sensibilità e delle dita molto più fine. E di ciclo mestruale nessuno ha mai parlato. Quindi diciamo, lei ci conferma comunque che una particolare coltivazione in Ungheria di vino Tokaj richiede una mano femminile per separare le muffe che sono la parte più pregiata del vino. Elena Martuscello, ha sentito mai parlare di questa vicenda? Sì, in genere si sente un po', si legge da qualche parte, e mi fa piacere che venga questa diciamo rassicurazione per questo nostro interlocutore, che era così preoccupato delle donne che ancora secondo lui possono arregare danno. Noi lo diciamo come butade, proprio per confermare in realtà che la rivoluzione è sempre fastidiosa per chi manteneva un potere costituito. Giulia Gavagnini, che ancora è in linea, ti ho fatto stare molto in ascolto. Sull'evoluzione di questa chiacchierata cosa hai da dire? Ma allora a me piacerebbe dire una cosa, che da tutto quello che vi siete detti e ci siamo detti, probabilmente il leitmotiv di questa conversazione è un po' la creatività, nel senso che la donna nel bere e nel produrre il vino, viste le grandissime produttrici che ci sono ora, riesce ad inserire tutta la sua creatività, che è tipicamente femminile. Quindi è secondo me veramente un processo creativo. Ogni passatismo trema e si sente scardinato soltanto all'idea della creatività di qualcuno che metta in dubbio ciò che già esiste, già ha funzionato sempre così. Ci fermiamo un istante per dare la linea di informazione del traffico, a tra un minuto. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Oggi spiegherò qualcosa che mi chiedono in tanti durante la mia attività di sommelier. Allora, è l'apertura di una bottiglia. E molte persone mi chiedono: ma io voglio fare bella figura quando ho gli amici a casa, ho una cena, una bottiglia importante, e non so mai da che parte cominciare. Infiliamo al centro la nostra spirale. Sono sempre i consigli che dà una donna rispetto alla possibilità di gestire anche una bottiglia di vino in un momento importante, in un momento di relazione. Stiamo parlando questa mattina dal Vinitaly di Verona, dallo stand del Trentino, in cui è la postazione Radio 24, del rapporto tra donne e vino. Se posso riassumere, per quello che ho capito, che ho cercato di scavare nel profondo, che la gestione del vino era un'operazione tipicamente maschile. Perché? Perché il vino è la chiave per una delle tante possibili uscite dal mondo, e l'uomo vuole averla bene stretta, questa chiave. Il vino è sempre stato fabbricato in maniere molto tradizionali, molto legate a un passaggio esperienziale che non ammetteva deroghe. Quando a un certo punto, per motivi particolari, per fattispecie molto ineffabili e difficili da spiegare, la donna è cominciata a entrare nella fabbrica del vino, il vino è cambiato completamente. È diventato qualcosa di aperto, di volubile, di mutevole. È entrato l'elemento fantasia, è entrato l'elemento creatività. Però adesso quello che vorrei capire è proprio nella gestione, nella ritualità del vino come facilitatore di rapporto, perlomeno come fluidificatore di rapporto. Mi diceva Cinzia Canzian, che è una produttrice di vino di Vittorio Veneto, che oggi presenta il suo punto G, nel senso un nuovo vino, un prosecco che le ha chiamato punto G, come estrema sfida verso il mondo degli uomini, mettendo sull'etichetta ciò che la donna ha più di nascosto e più difficile da trovare. Tu mi dicevi che ancora è bello avere, o perlomeno è formidabile una donna, avere un uomo che si intenda di vino e che intuisce il vino giusto per la persona giusta. Io, il mio parere, che da uomo ti dico, è meraviglioso abbandonarsi alle scelte del vino da parte di una donna. Sì, sono diversi punti di vista. Comunque, alla fine il vino, come diceva anche Elena, la presidente, la mia presidente, è un momento di piacere, quindi se vogliamo diventa comunicazione tra uomo e donna a diversi livelli, cioè può essere una comunicazione tra amici o comunque tra amanti. È bello che ci sia la donna che sa di vino, e credo, sì, come hai detto te, piace all'uomo. Sa di vino nel senso che se l'ha versato sa di vino, sì. E però nello stesso tempo io credo che a noi fa ancora piacere se qualcuno sceglie un vino per noi, perché è un momento, è un atto così di non lo so, di cortesia, anche un modo per comunicare, per dirti guarda, ho capito di te questo. Sì, quindi ti rendi conto quanto si alza il livello di ansia di prestazione. Una cosa è scegliere un vino per una donna che ti guarda con l'occhio rapito, qualunque cosa dai lo beve volentieri. Una cosa è sceglierlo per te, che da anni fabbrichi vino. Mi metterebbe un'angoscia terribile. No, ma in questo modo si fa selezione, no? Vabbè, allora uscirei soltanto con sommelier. No, Giulia Gavagnin, come la pensi a proposito? Allora, questa è una famosa questione, perché ci sono uomini che sono sollevati se la donna sceglie il vino, traendoli dall'impaccio di fare brutta figura. Ci sono uomini che invece guardano con avidità la carta dei vini quando vanno al ristorante, perché cercano ossessivamente la bottiglia meno cara, così magari si garantiscono il massimo risultato con il minimo sforzo. E poi ci sono uomini invece che si bullano di scegliere dalla carta dei vini molto complicati, che magari si adattano malissimo al cibo che hanno scelto per fare bella figura e per mostrare la loro superiorità. Scusa Giulia, ma perché escludi una quarta categoria di uomini che ha il piacere, la curiosità di abbandonarsi alla scelta del vino da parte di una donna? Come a voi piace che un uomo vi interpreti attraverso il vino, anche a noi piace capire quale segreto in quel momento ci vuole rivelare di sé una donna dandoci un vino. Perché viene esclusa questa cosa? Perché forse questa è una categoria nei confronti della quale non potevo produrre la mia invettiva. Ah, ecco, per questo. Certo. Cinzia Canzian, rispetto a quello che ho detto io, no, difendo la mia categoria, non mi sento che mi manchi una gamba, perché non ho nessuna voglia di scegliere il vino. Non dispiace assolutamente, anche mi capita spesso di scegliere il vino, ma perché in quel momento chi mi sta accanto mi dà la carta dei vini in mano, quindi alla fine ma lo faccio volentieri, però voglio dire, sono belle entrambe le cose, cioè non starei lì a sottilizzare troppo, insomma. Per te è strumento di lavoro, però ti dico, oggi le chiavi delle suggestioni dei non detti in un rapporto di complicità, secondo me, passano anche su questo piano qua. Una volta era il baluginare di un elemento di nudità, di un capo di biancheria, di un profumo particolare. Oggi anche la capacità di lasciarsi sedurre da una scelta di vino. Questo è il mio punto di vista. 800240024. Posso, voglio, amo essere smentito. Enrico da Milano. Buongiorno. Ecco, premetto, non è che abbia pregiudizi sulle donne, insomma, lì ci mancherebbe. Io credo che sia un fattore molto estremamente di moda che ora molte donne facciano il corso di sommelier, che appunto, ecco, donna manager che si intende anche di vino. Lei lo dice con una punta di astio, però lo sento. No, guardi, mi fa girare diciamo un po' le scatole. Quando io ho fatto delle scene, 7, 8, 9 scene con donne sommelier, e le dico la verità, ogni bottiglia che si apriva, che aprivano, io facevo il cuoco, scaraffandola o che cosa, ogni girata di bicchiere è una storia, e le dico la verità. Ma questo lo fanno anche gli uomini. Ella Martuscello, salutando la Presidente Associazione Nazionale Donne Vino, vede quanto ancora le ho fatto scoprire che resiste il mondo maschile a lasciare parte del suo dominio alle donne? Veramente mi dispiace un po', perché io credo che in un rapporto sia amicale sia amoroso è bello spesso abbandonarsi, e se lasciare la scelta a una donna che si immagina, si pensa sia più competente per la scelta di un vino, ma può essere anche un grande... Le do ragione, è bello abbandonarsi quando uno lo scopre, però è troppo vecchio o troppo avanti nella carne frollata perché qualcuno di quest'uomo abbandonato sappia farsene qualcosa. Grazie ai miei ospiti, ci sentiamo lunedì. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.